spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Rieccoci insieme 16 minuti dopo le 8, ancora un saluto da Irene Zerbini. Stiamo parlando questa mattina di due grandi temi. In Germania, e questo sarà un tema che affronteremo dopo le 9 col nostro ospite d'eccezione, Terry Gilliam, si spegne, per spegnere lo smartphone dopo l'orario di lavoro c'è voluto una legge che lo vietasse. Addirittura ci sono degli alberghi dove bisogna pagare per essere certi di non connettersi al wifi, nel senso che è proprio una richiesta. Semplicemente non si può entrare in una camera e decidere autonomamente di non utilizzare internet, perché si sa che ci si cadrebbe, dunque si paga per avere delle camere completamente scollegate. Questi sono i paradossi del giorno d'oggi, sono stati registrati anche da Gilliam, il regista di Brazil da una parte, grande personaggio di Monty Python, che oggi ci darà la sua visione proprio sui social, che sono gabbie, dice lui, ci rendono tutti schiavi, creano una dipendenza che facciamo fatica anche a identificare, di conseguenza ancora più subdola, più sottile. Ma questo sarà nella seconda parte di Spunti di Vista, perché vogliamo prendere in esame quello che cambierà con il nuovo decreto sulla sanità. E tra tutti gli sms che sono arrivati fino a questo punto, vi ricordo il numero 349-238-6666, voglio leggervi questo. Buongiorno, sono un medico e mi occupo di ecografie. Ieri mattina, dice questo dottore, facciamo molta attenzione a questo, ho fatto un'ecografia all'addome a una signora. Questa ecografia a me, dunque a lui radiologo, mi sembrava inutile. La signora non aveva sintomi e l'aveva fatta giusto per controllo. Ebbene, la svolgo, la faccio. La signora aveva un tumore al rene destro di quasi 4 centimetri. Ora io mi chiedo, chi decide se un esame è utile o inutile? Il ministro lo avrebbe prescritto questa ecografia? Cosa sarebbe successo a questa povera signora se non avesse identificato in tempo questo tumore? Chi vivrebbe con questo senso di colpa se la signora, facendo l'esame e scoprendo il tumore, denunciasse il medico che non voleva prescriverlo? Perché questo è un altro aspetto previsto in questo, in queste innovazioni, in queste novità nel modo che avremo, nelle relazioni che avremo con i nostri medici, è prevista da questo decreto di ieri. Oppure, peggio, se questa signora aggredisse il medico. E poi questo dottore continua chiedendoci di far girare questo messaggio, che speriamo vada all'attenzione delle persone giuste, che si possa ancora intervenire, perché sono alcuni dei rischi poco esplicitati oggi sui giornali, ma che al di là dei costi sono importanti soprattutto per la qualità della vita di residenti e cittadini. Allora, ancora una volta, sms 349-238-6666, sono già tantissimi, potete chiamarci all'800-24-00-24, potete scriverci un'email, spuntidivista@radio24.it, siccome siamo dipendenti dai social utilizzate anche Facebook. Prima però noi andiamo all'estero ancora una volta in compagnia di qualcuno che ci farà aprire gli occhi. Visti da fuori. Buongiorno, hola, oi, Claudia Garcia, benvenuta. Oi, tutto buon? Ciao Irene. Come avete sentito, abbiamo in studio la corrispondente in Italia per i nostri incontri con i corrispondenti stranieri per Globo Esporte Brasile, ma scrive anche per giornali portoghesi. Più che una corrispondente italiana, questo va sottolineato, questa giornalista fantastica è la corrispondente dall'Europa. Cosa significa per te raccontare l'Europa invece che un paese solo? Un'attività molto impegnativa. Sì, significa innanzitutto tanti viaggi, tanti spostamenti, e molto stancante, perché Europa, comunque in Brasile, visto che il Brasile è un paese molto grande, quasi come un continente, loro anche vedono l'Europa un po' come un paese, pensano che è tutto molto vicino e Ah, ma tipo mezz'ora sei da lì, un'ora sei dall'altra parte. Sì, già che sei a Milano. Esatto. Perché a Sofia sta succedendo. Perché Milano è comunque molto, molto in centro Europa, molto vicino a tanti paesi, ma la realtà è che non è così facile, perché l'Europa, pur essendo comunque un continente di tanti paesi vicini, aggrappati, comunque i paesi sono lontani a livello culturale, a livello alimentare, di tradizione, di idiome, di tante cose. Quindi basta andare da Portogallo a Spagna o da Italia in Francia, già c'è comunque una differenza. E anche per me cambiare tanto, diciamo, le persone con cui parlo, le lingue, che comunque parlo diverse lingue, ma ci sono paesi che non conosco tanto l'idioma, l'alimentazione, comunque non è facile, stai sempre cambiando di ambiente, di atmosfera. Tra l'altro sei giovanissima, sei una bellissima donna, questo ha comportato per te anche nel corso dei tuoi viaggi, immagino, delle reazioni differenti. Io approfitto di questo tuo osservare l'Italia per chiederti proprio un'opinione su un fenomeno, quello del femminicidio, che a cui in Italia viene dato abbastanza risalto, anche se ancora non ci sono soluzioni, ma che per il quale si sottolinea sempre la mentalità piuttosto maschilista di questo paese. Tu trovi che sia così, tu che viaggi in tutta Europa? Non tanto, non sono d'accordo. Diciamo sì, perché sì, come tu hai sottolineato, comunque essendo molto giovane, penso che adesso la mentalità dei giovani ha cambiato. Se parliamo di persone magari un pochino più anziane o di altri tempi, ma anche in Portogallo, in Spagna e in altri paesi del sud Europa, vedo una mentalità un po' maschilista. Ma da persone più vicine alla mia generazione non tanto, penso che sta cambiando positivamente anche in Italia. Questo ci fa naturalmente ben sperare. Quello che ti ha colpito di più della realtà italiana nei tuoi viaggi? Tu scrivi tanto di sport, ora inevitabilmente e chiaramente anche il campionato italiano ancora pieno di stelle brasiliane suscita non tanto attenzione. Non tanto, un po' meno, è vero, un po' meno pieno di stelle. Un po' meno pieno di stelle, è vero. Però insomma, quanto viene guardato dai brasiliani questo campionato italiano? Sta perdendo un po' smalto? Moltissimo, e questo mette in rischio anche il mio lavoro. Perché diciamo che magari sono nel momento sbagliato che in Italia, perché 10 anni fa c'era comunque una realtà a livello sportivo molto, molto più ricca e più dinamica da quello che c'è adesso. Diciamo che su tanti punti di vista è un pochino triste adesso la realtà anche sportiva. Per questo sì, sottolineo che il mio lavoro è fatto in tutta l'Europa, perché non sono sempre qua in Italia, precisamente perché ci sono diversi eventi all'estero, diversi personaggi che stanno spuntando in tanti paesi, che io devo viaggiare molto, precisamente perché adesso in Italia non c'è tanta, i brasiliani non guardano tanto il campionato brasiliano, che campionato italiano, scusami, come una volta. Adesso è più l'inglese, spagnolo, francese, anche portoghese. Sta prendendo piede anche non solo il calcio degli altri, ma sta surclassando di brutto la Serie A, che una volta era il punto di riferimento, diciamo così, mondiale. Ma al di là dello sport, tu hai raccontato questo paese, ti ha colpito molto a volte l'edilizia, lo stato dell'edilizia pubblica. Cioè, cos'è che hai sottolineato? Sì, io faccio, diciamo, sia scrivo che faccio video e faccio anche la parte un po' televisiva. Se mi chiedi cosa mi ha colpito, direi più anche le strutture, no, dal paese Italia, che paragonando con tanti altri paesi in Europa sono un po' vecchie. Parlo delle scuole, degli ospedali. Penso che è un paese comunque dove le tasse sono tanto elevate, perché io pago pure le tasse qua in Italia, i servizi pubblici non siano buoni come gli italiani meritano, perché comunque pagano per averli. E su certi punti di vista mi sembra che il paese sia molto concentrato su settori privati, su piccoli imprenditori, che c'è molta creatività qui in Italia. Effettivamente in tanti reportage a volte sottolineiamo questo punto, che è un paese di piccole e medie aziende, tante famiglie creano il suo piccolo imprenditorismo, ma sul settore pubblico, sul mio punto di vista, lascia molto a desiderare. E tu l'hai raccontato ancora prima che i corrispondenti americani parlassero parlassero del degrado di Roma, sottolineavi proprio la decadenza dell'edilizia pubblica, che è un punto di vista molto ficcante, interessante. Che altro hai raccontato sul modo di vivere in Italia e la prima differenza, forse la più grande, che ti ha colpito quando sei arrivata da brasiliana e portoghese, diciamolo, tu hai entrambe la cultura grazie alla possibilità di parlare il portoghese e fai la corrispondente per il Brasile, perché c'è una differenza a rivolgersi a un pubblico potenziale di 190 milioni di lettori, ascoltatori, rispetto chiaramente a delle piccole realtà dei media portoghesi. Qual è la prima cosa che ti ha colpito anche come persona, al di là di quello che poi hai scritto e affrontato come giornalista? No, ci sono tantissime differenze, innanzitutto a livello di mentalità, perché qua comunque non c'è una mentalità molto cosmopolita, pure io conosco più la realtà di Milano, quindi non voglio essere ingiusta con altre realtà italiane, ma giro un po' tutta l'Italia, mi sembra anche peggio. Milano è ancora quella che si avvicina di più a una realtà di essere più cosmopolita, più città grandi in Europa. Tutte le persone che arrivano qua, sia giornalisti sia di altre professioni, giovani con ambizioni, non è comunque facile scalare ed arrivare a fare una carriera. Ecco, prima hai sottolineato che ero molto giovane, e quale persona giovane della mia età, sono anni luci da quello che sono in Brasile, perché lì si comincia a lavorare molto presto, normalmente già con le persone quando finiscono l'università, 24-25 anni, già hanno fatto degli stage, però stage pagati, quindi cominciano già a mettere il piede nel mondo del lavoro molto prima, normalmente a 30 anni già hanno una situazione economica, quelli che sono laureati, che hanno dei studi, già hanno una situazione economica molto meglio di quello che succede qua in Italia. Quindi è molto interessante quello che racconti, perché di solito ci si concentra sul Brasile solo quando c'è un reportage o arrivano notizie decisamente allarmanti, non solo di crimine, di povertà, e sono due realtà diverse, è chiaro, e parallele, come invece comunque in quel paese avere accesso all'istruzione, e questo avviene per una fascia sempre più consistente della popolazione, è una garanzia di riscatto sociale, mobilità, e soprattutto il fatto che i giovani con una laurea o con un titolo siano pagati, abbiano il giusto risalto delle proprie capacità, e qua non c'è più questa riconoscenza. Questa è stata la prima cosa che mi ha colpito, quella differenza del mondo del lavoro, che lì sicuramente è molto più avanzato, perché lì è un pochino il modello più americano, quindi le persone quando finiscono l'università già sono molto dentro al mondo del lavoro, perché ho fatto università lì e anche in Portogallo una parte, quindi l'università in Europa è molto più su studi delle discipline, nel mio caso giornalismo era molto teorico, invece lì in Brasile è tutto molto più pratico, anche i miei colleghi che hanno fatto ingegneria, economia. Poi l'altra cosa che mi ha colpito è comunque che logicamente in Brasile le persone vivono con più gioia e qua sono più, diciamo, si lamentano molto rispetto a quello che hanno. Claudia, è stato fantastico incontrarti, naturalmente ti convocheremo ancora, non solo per parlare della tua impressione, della tua esperienza come pensate corrispondente, non in Italia, dall'Europa per Globo, e questa è un'opportunità che è stata data a questa giornalista, voi chiaramente non la vedete, siamo in radio, molto giovane, non tanto assolutamente non perché lei sia fortunata o raccomandata, ma perché uscire da un'università di giornalismo in Rio de Janeiro ti dà la possibilità. A Sao Paolo l'hai fatta, mi hai detto che eri cresciuta a Rio, e ti dà la possibilità di accedere a questo tipo di esperienze che invece sicuramente i giovani giornalisti italiani sono precluse per tanti tanti anni. Claudia, grazie, obrigada, riconosci questa musica? Sì, Tim Maia. Leggici e raccontaci il titolo con una pronuncia portoghese accettabile, perché se lo faccio io è da scandalizzarsi. Non quero dinheiro, só quero amar. Bellissimo, bellissimo. Non voglio soldi, só voglio amore. Non vuoi soldi, vuoi amore. Amore. Bene, questo è il titolo della canzone con cui ti salutiamo. Grazie per averci aperto questa finestra sul Brasile. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Abbiamo preso una sberla anche dalla corrispondente brasiliana, ci sottolinea qualcuno, ma no, ma perché? Perché invece è importante confrontarsi anche con gli altri sugli aspetti della vita che più balzano all'occhio quando si viaggia, non per turismo, per vacanza, perché quella è un'esperienza diversa, ma quando si vive dentro una realtà, si ha a che fare con i servizi e si fanno dei confronti su quello che funziona o meno nel proprio paese, perché molto spesso, proprio anche vivendo all'estero, si rivaluta quello che l'Italia ha, quello che l'Italia ha da offrire, quello che il proprio paese dà, e a volte si dà per scontato, non avendo un termine di paragone. Ma noi italiani non amiamo confrontarci, oppure accettiamo che le critiche vengano da giornali e da nazionalità di un certo tipo, come Stati Uniti, New York Times, ma ci piace meno che poi a farlo siano altri. Per esempio, parlando di questa esperienza del confronto, dai vostri sms sulla tematica di oggi che riguarda la sanità, e emerge che questo è considerato una sorta di patrimonio dell'Italia, anzi all'estero viene considerato qualcosa che non solo non va smantellato, ma la sanità universale con i servizi accessibili a tutti, come fino ad oggi più o meno si è riusciti a garantire in questo paese, un orizzonte a cui tendere. Ci sono anche sms critiche e critici tra i vostri. Per esempio, c'è chi ci segnala, come Alessandra, che l'Italia ha il record mondiale per risonanze magnetiche e parti cesare, ne abbiamo già parlato, possibile che siano tutti necessari, ma in generale le persone sono molto preoccupate dal decreto di ieri, sono tagli sulla sanità, ma i tagli cosa sono? Per i cittadini questi non sono tagli, ci scrive Lella, per i cittadini sono tasse, perché i tagli non si fanno mai sugli stipendi dei parlamentari, sui privilegi, quelli sarebbero tagli, il resto sono tasse, e in più ci hanno votato anche la fiducia. Dunque siamo qui alla finestra, entro un mese arriveranno questi protocolli del ministro Lorenzin, ci saranno vincoli. E ci saranno vincoli anche per i medici, anche questo è un aspetto che analizzeremo. Avete già sentito l'appello accorato del dottore che ci scriveva ieri, mi è capitato ieri, grazie a un'ecografia definita inutile sulla carta, di scoprire e di comunicare a una signora che poi intraprenderà naturalmente un percorso di cure, che aveva un tumore ed era una semplice ecografia di controllo. Cosa succederà domani quando questo non potrà, potremmo più farlo, o se lo faremo potremmo essere denunciati, ci potrebbero togliere l'equivalente della prestazione dallo stipendio, perché anche questo prevede questo decreto, potremmo essere aggrediti, che succederà? Sono tante domande, noi vogliamo sentire la vostra opinione. 8 e 36 minuti all'800 24 00 24. Intanto però sentiamola il ministro Lorenzin. Vorrei innanzitutto dire che non c'è nessun taglio di 10 miliardi, non è stato né pensato né previsto né è pensabile, perché la sanità italiana ha già dato da questo punto di vista. Invece, insieme al commissario per la spending, stiamo attuando il patto della salute in modo prescrittivo, cioè ridurre i tanti sprechi che ancora ci sono nel settore sanitario per reinvestirli nella sanità e quindi nell'innovazione, nella ricerca scientifica, nel personale e nell'accesso ai nuovi farmaci. Se poi riusciamo anche a contribuire alla riduzione delle tasse, credo che questo sia un beneficio per tutti gli italiani, ma prima dobbiamo reinvestire nel sistema salute. Reinvestire nel sistema salute, e chiaramente di costi, di chi ha speso di più, di sprechi. Sono piene le schede dei quotidiani di oggi, ci sono regioni che segnalano, alla Lombardia sono state chiesti risparmi per 380 milioni, noi li abbiamo già fatti in passato e questo non è giusto. Poi per la Campania il sacrificio, ci segnala il Sole 24 Ore, e ammonta a 200 milioni, tra l'altro abbiamo già avuto un rigido blocco blocco del turnover, e abbiamo già ridotto pesantemente gli organici, abbiamo bloccato i concorsi, insomma di sacrifici in questo settore ne abbiamo già fatti tanti, e adesso come faremo? Ma al di là dell'aspetto economico, a noi interessa l'aspetto della vita quotidiana di noi cittadini, utenti. Carlo Rienzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E quindi prima di tutto la parola a voi che rappresentate i consumatori. Ha sentito la dichiarazione del ministro Lorenzin? Sì, ma i tagli non possono essere fatti certamente sulla pelle dei malati, perché è chiaro che se io non faccio un'ecografia e non scopro un tumore, il malato muore. Quindi è il modo che è sbagliato. È vero che ci sono delle prescrizioni inappropriate che molti medici, solo perché così non perdono tempo, mandano a fare risonanze, analisi, radiografie che poi sono anche dannose, per dire vabbè intanto così mi metto tranquillo, e questo è sbagliato. Ma questo non si fa minacciando il medico che se esagera viene punito, si fa creando una rete di medicina di base, di medici generici, soprattutto internisti, che ormai non ci sono più gli specializzati internisti perché sembra che non lavorano più, che sono quelli che sanno fare la diagnosi indipendentemente anche da una risonanza magnetica. Ecco, attraverso questo sistema si devono fare i tagli, e poi si devono fare su ben altre cose, come sono per esempio i costi per la sanità di tutto quello che serve per esempio per fare un intervento chirurgico. Voi pensate che se compra una protesi a un'anca o un bypass o il Servizio Sanitario Nazionale, quindi l'ospedale, lo paga 10, se lo compra il privato lo paga 4. Perché? Perché il servizio sanitario paga dopo 6 mesi, dopo un anno. Quindi se si riuscisse a fare in modo, come voleva una legge che è stata fatta nel nostro paese, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni avvengono immediatamente, come i privati, perché al privato non gliela danno proprio la protesi se non paga, potrebbero risparmiare il 50%, 60%, 70%, e questo. Quindi risparmi nella gestione, nei controlli, nell'accorpamento dei fornitori, ma non nell'erogazione delle prestazioni in corsia. Assolutamente. Carlo Rienzi, lei ha nominato i medici, c'è la dottoressa Maddalena Schiano con noi, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Dottoressa, tra l'altro, che lavora in un settore molto delicato, perché il pronto soccorso, pensate, del pronto soccorso del San Camillo di Roma, pronto soccorso e medicina d'urgenza, lì un osservatorio molto particolare dove abbiamo visto, e a volte ce ne siamo occupati anche come stampa nazionale, pazienti che rimangono in barella per 7-8 giorni, cioè c'è già una situazione di grande bisogno. È una situazione di grande bisogno, denunciata più volte. Sono assolutamente concorde con l'idea che questo non risolve il problema. I tagli sulle nostre prestazioni e sulle prestazioni che dobbiamo erogare ai pazienti, per giunta penalizzando noi medici, è un modo per toglierci ulteriormente l'aria. Noi siamo, è vero, sottoposti a una pressione terribile da parte della medicina difensiva, ma è pur vero che la stessa classe politica, sono oltre 10 anni che discute in maniera assolutamente inutile per quanto riguarda la depenalizzazione e il reato civile per quanto riguarda i reati medici. E è pure vero che noi non abbiamo una legislazione. Cioè voi dite, attenzione, il medico, quando parlate di depenalizzazione, deve finire davanti a un giudice? Esatto, deve finire davanti a un giudice che può, sulla scorta di perizie, anche inficiare quelle che possono essere le linee guida. Poi, per carità, dobbiamo applicare delle linee guida che in alcuni casi non vengono fatti, però noi a questo punto siamo stretti fra una autorità che si permette addirittura di penalizzarci economicamente se prescriviamo un esame in più, e una legislazione che permette a chiunque, con pubblicità che passano su tutte le radio e su tutte le televisioni e che vengono poste anche all'interno dei nostri stessi pronti soccorsi, che promettono all'utente che si sente vittima di mala sanità di poter procedere contro di noi. Quindi noi in questo momento siamo paralizzati. a fronte di un cittadino che ha delle richieste sacrosante e che alle quali bisogna in qualche modo dare risposta. Perché cioè lei un domani, scusi, a fronte di un rischio di essere accusata, e non solo accusata, anche penalizzata dal punto di vista economico, di aver prescritto un esame in più, continuerà a farlo? Cambierà atteggiamento in corsia di fronte al paziente? Come cambia lei? No, per me il paziente è sacro, io vado avanti. Queste persone dovranno poi spiegarci perché la sanità continua ad essere il loro bancomat. Questo ce lo devono spiegare. Però voglio dire che in questa manovra ci sono anche dei tagli lineari che sono nascosti nell'ambito di questa manovra. Cioè si tratta di tagliare altri posti letto, si tratta di tagliare altri posti letto di riabilitazione, si tratta di chiedere di ulteriormente accorciare i tempi di degenza dei pazienti, che sono già ridotti al minimo. Al minimo, per cui ci sono pazienti che siamo costretti a dimettere e che sono costretti a tornare nel giro di brevi giorni. Perché si aggravano? Perché si aggravano? Perché purtroppo non abbiamo un tessuto, poi, come diceva giustamente Di Rienzo, non esiste un tessuto territoriale capace di accogliere questa gente al di fuori dell'ospedale. E quindi, perlomeno per quanto riguarda la mia regione Lazio, sicuramente tutto questo non esiste e non sono le casse della salute la soluzione. Però c'è anche chi segnala sprechi in termini di risonanze magnetiche prescritte in eccesso. E questo a quanto ammonta, secondo lei? Perché qui si parla di cifre pazzesche che si recupererebbero se semplicemente non scappasse la mano troppo agevolmente ai dottori quando hanno la prescrizione facile sugli esami. Non lo so quantificare. Mi sembra che anche questo sia un modo, come è stato quest'inverno con i pronti soccorsi pieni, di dire che i pazienti in barella ci stavano perché c'era l'influenza. Allora, i pazienti in barella ci stavano senza influenza, ci sono adesso che il picco influenzale non c'è, ovviamente ci stanno perché hanno fatto dei tagli lineari assolutamente incontrollati, per cui non ci sono posti letto, vengono rinviati interventi di importanza massima, il cittadino è curato in condizioni estreme. Le dirò di più: siamo noi medici che abbiamo a questo punto la responsabilità di dire bene, ci state obbligando a tutto questo, ma noi dobbiamo obbligarvi a guardare un attimo su questa sanità, su questi ospedali obsoleti, su queste difficoltà che abbiamo tutti i giorni, perché poi questi tagli riguarderanno anche le forniture, perché è vero che per quanto riguarda i nuovi farmaci, pensiamo ai farmaci biologici per le malattie autoimmuni o ai farmaci, al nuovo farmaco per l'epatite C, dove rientrano? Rischiamo di creare pazienti che se li possono permettere e altri che non avranno accesso. E altri che non se li possono permettere. Lei ha fatto bene a spiegarci tutto quello che lei vede, vive in prima fila, perché lei lavora in un pronto soccorso. Queste non sono, come dire, le chiacchiere di noi giornalisti o di chi osserva da lontano. Sulla medicina difensiva c'è qualcuno che ci ha scritto, si chiama Gianfranco: nessuno dice che per combattere la medicina difensiva basterebbe permettere al medico di difendersi quando chiamato in giudizio e rivalersi una volta assolto su chi specula, vale a dire, in primis, questo è un tema che ha sottolineato anche lei, dottoressa, l'avvocato che ha consigliato al proprio cliente di intraprendere una causa inutile, tanto non si rischia nulla. Tantissimi aspetti toccati da questa sanità, noi però ora ci spostiamo un attimo sulle strade a controllare la situazione della viabilità e poi torniamo insieme a voi. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. E sono sempre aspetti finanziari che poi hanno delle ricadute immediate, tangibili sulla vita di tutti i giorni, e c'è questo problema anche della competizione tra regioni. Chieda alla rappresentante del Servizio Sanitario Laziale, ci scrive Diego, quanto spende la regione in rapporto alla regione Lombardia, cioè rispetto alla Lombardia è stato non solo spendaccione, ma l'hanno scoperto anche inchieste precedenti, naturalmente in alcuni casi situazioni di corruzione e quant'altro. Però noi stiamo prendendo in esame poi la situazione di chi queste cose le deve gestire di fronte al paziente, di fronte al malato, con turni di 14 ore che ormai toccano i medici in pronto soccorso, e con il condizionamento che può portare alla paralisi, come ha sottolineato la dottoressa, ma sono altri medici che ci stanno scrivendo e ci enfatizzano questo aspetto, con il condizionamento dovuto a questo timore, quando non terrore, di finire o denunciati o penalizzati perché si è prescritto l'esame di più. Vediamo come affrontare dal punto di vista invece del modello sanitario che vogliamo per questo paese il problema del futuro. Gilberto Turati, buongiorno. Buongiorno. Gilberto Turati è un professore, insegna scienze delle finanze all'Università di Torino, tra l'altro è un redattore della Voce.info e si è speso molto su questi temi, cioè la sanità per esempio, le chiedo professore, da qua a 10 anni in Italia che aspetto avrà? Ecco, questo è il tema che forse manca nel dibattito di questi giorni a proposito dei famosi tagli, o se vogliamo chiamarli in maniera diversa, risparmi. E tra l'altro, mi consenta, ho sentito fino adesso il dibattito, mi pare che gli esempi che sono stati portati sia dal primo medico che è intervenuto che dalla seconda dottoressa vadano nella direzione del governo, cioè stanno confermando al governo che spazi di razionalizzazione della spesa ci sono. Se è vero che per esempio le protesi costano in maniera molto differenziata tra ospedale e singolo paziente, allora vuol dire che possiamo risparmiare e avere una protesi in più per il Servizio Sanitario Nazionale se riuscissimo a far scendere i prezzi. Altro tema che è stato toccato è quello dell'integrazione tra l'ospedale e il territorio. Mi sembra che di nuovo lì ci siano spazi di razionalizzazione. Quello che non si è fatto in questi anni, oltre a tagliare i posti letto, è creare una rete territoriale che consentisse il passaggio più possibile normale, diciamo, dall'ospedalizzazione per che costa di più, ricordiamolo, rispetto al territorio, senza dubbio. Quindi questi sono temi sui quali occorre riflettere, e il governo a questo punto, come dire, mi sembra che abbia ulteriori frecce al suo arco per poter difendere, diciamo, la manovra. Quello che lei suggeriva invece è uno sguardo, diciamo, prospettico sulla sanità del futuro. È vero che sulla base di quello che ci ha detto la Lorenzin, questi sembrano fenomeni di razionalizzazione della spesa, però la spesa inevitabilmente, sulla base anche dell'andamento demografico, tenderà a crescere in futuro, e quindi occorre capire come faremo a finanziare una spesa che sicuramente crescerà. Cioè la vera domanda è: lo vogliamo un sistema universale o dobbiamo invece intraprendere la strada delle assicurazioni complementari e della privatizzazione? Esattamente, cioè bisogna chiedersi a questo punto se, arrivati all'efficientamento complessivo della spesa, cioè una volta che abbiamo eliminato qualsiasi spreco, inevitabilmente dovremo porci il problema di come finanziare la spesa che comunque continuerà a crescere, anche se noi saremo diventati efficienti a fornire i servizi. Certo, per quanto tagliamo gli angolini, diciamo così, quando si parla e del costo dei farmaci, prima si è fatto un esempio specifico, ma sono tantissimi quelli che si rendono necessari per salvare vite o alleviare dolore in situazioni di patologia anche cronica, cioè l'allungamento della vita che non possiamo ignorare porterà a dei costi che cresceranno sempre di più per il sistema sanitario. Inevitabilmente, anche razionalizzando, anche essendo, qui uso un cliché, svizzeri su tutto, il costo per la sanità sarà una delle voci di spese, ora è la prima, ma tendenzialmente se vogliamo un sistema universale più di tanto non potremo tagliare. Esattamente, tra l'altro l'esempio che abbiamo tirato, che avete tirato fuori prima, quello del farmaco per l'epatite C, sì, da oggi porrà un problema, perché se lei prende, so che la Toscana per esempio ha provato a fare una gara, ma il prezzo che ha spuntato non è diverso rispetto a quello che ha spuntato il Servizio Sanitario Nazionale, quindi la gara nazionale, quello dovrebbe essere tra virgolette il nostro costo standard, il costo di riferimento per quel farmaco. Se lei prende l'ammontare complessivo di denari che sono stati messi su sta partita e divide per questo costo standard, trova immediatamente il numero di malati che potranno essere curati in un anno senza sforare il budget. Cioè? il numero, da quello che so io, è inferiore rispetto al numero di malati che effettivamente dovrebbero avere questo farmaco. E allora la domanda che gli si pone è una domanda etica, cioè come facciamo una lista di priorità? A dire sì o a dire no a qualcuno. Grazie innanzitutto per averci dato un esempio così eloquente e così pratico. Rimanga con noi, come rimanete con voi, con noi anche Carlo Rienzi, la dottoressa Maddalena Schiano. Ora vogliamo farvi sentire, abbiamo chiesto ieri al sottosegretario del Ministero alla Salute, Vito De Filippo, che non poteva far parte di questo panel in quanto impegnato questa mattina, un commento su quanto accaduto con questo sì del Senato ai 2 miliardi e 3 di tagli. Attenzione a cosa ci dice De Filippo. Le regioni e il governo, per la prima volta dopo tanti anni, hanno rimodulato il fondo sanitario del 2015 con un accordo che è stato sancito nella conferenza Stato-Regione, che pesa circa 2 miliardi e 300 milioni di euro. Hanno rimodulato il fondo non tagliando in termini lineari quel fondo, ma applicandosi affinché aree di sprechi, di inefficienza o di inappropriatezza del nostro sistema sanitario italiano potessero essere individuate meglio in un lavoro congiunto, ed evitare quindi riduzione di servizi o carichi impropri verso i cittadini e i pazienti. Queste aree sono state individuate nella conferenza Stato-Regione, riguardano l'acquisizione di beni e servizi, l'inappropriatezza nella erogazione di cure specialistiche, ricoveri impropri in ospedale di piccole dimensioni, la spesa farmaceutica. Per chi fa questo mestiere nelle regioni, non solo a livello centrale, sa bene che ci sono sacche di inefficienze nel nostro sistema sanitario italiano che non ci possiamo più consentire, innanzitutto per la sanità, ma poi più in generale per la finanza pubblica del nostro paese. E dunque, dottor Turati, ha sentito anche il sottosegretario alla salute, naturalmente mette il dito sulle inefficienze, che è un esercizio abbastanza facile perché sono abbastanza macroscopiche. E cosa rispondiamo? Ma la cosa che mi sorprende è sinceramente la definizione di taglio lineare, cioè quello che ha fatto il governo con le regioni, peraltro, perché esce questa discussione dal patto per la salute, rimodulato appunto sulla base dell'accordo dell'inizio di luglio, ha individuato delle aree specifiche che possono essere aggredite per migliorare appunto l'efficienza della spesa. Ma il taglio lineare è un'altra cosa, cioè il riparto tra le regioni dell'ammontare appunto di risparmi che si devono attuare. Esatto, e ne parleremo, l'approfondiamo tra poco, perché adesso torniamo sui tagli alla sanità anche nel corso del nostro notiziario, cui diamo la linea e poi continuiamo con questo dibattito. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. Parliamo di enti locali. La Corte dei Conti fa una fotografia impietosa. Sono oltre 7.680 le società partecipate dagli enti locali, ma soprattutto i bilanci di queste società partecipate in ben 7 regioni del nostro paese hanno un rosso, ossia delle perdite che superano ampiamente gli utili. Se fossero società private avrebbero già portato i libri in tribunale o sarebbero comunque fallite. In realtà le 7 regioni dove lo squilibrio tra utili delle società partecipate e perdite è fortissimo sono Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia. Pensate che solo quest'ultima, le partecipate generano 117 milioni di perdite a fronte di solo 36 milioni di euro di utili. Ma la cosa ancora più spiacevole è che la Corte dei Conti fa notare come solo 7 regioni abbiano presentato dei veri e propri piani di razionalizzazione, quindi anche di pulitura del bosco delle partecipate locali, e non sono necessariamente le regioni dove queste società sono in maggior perdita. Si tratta infatti di Lombardia, Umbria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo e Veneto. percentuali molto più basse di un taglio delle partecipate sono arrivate proprio dalle regioni che ne avrebbero più bisogno. Delle due l'una, o in queste regioni non si vuole vedere il problema, oppure, ahimè, lo si vede troppo bene, ma sono altrettanto chiari i vantaggi opachi e di carattere elettorale. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E ci ritroviamo 9 minuti dopo le 9, ancora buongiorno da Irene Zerbini. È naturalmente un argomento in cima alle preoccupazioni degli italiani, quello della sanità, quello di eventuali tagli. Noi stiamo affrontando proprio questo aspetto, cercando di rimandarvi, visto che tutto non possiamo fare con un tempo limitato, per i dettagli su quel che riguarda le singole regioni e le spese specifiche in materia di sanità, ai giornali o dove volete cercare questa informazione. Noi invece ci stiamo chiedendo, dopo questo testo, questo maxi emendamento al decreto enti locali, perché lì è contenuta la questione sanità. Ieri il governo ha ottenuto la fiducia al Senato, lo sappiamo. C'era questa stretta sul settore sanitario, dovrà generare nelle aspettative risparmi per 2 miliardi e 3 già dall'anno 2015. Nel mirino, l'avete sentito anche dalla voce del ministro Lorenzin che vi abbiamo proposto, del sottosegretario alla salute Vito De Filippo, nel mirino quelle prestazioni considerate non necessarie. Allora, certamente visite specialistiche, ricoveri ospedalieri non necessari, ma chi valuta questo? Attenzione, perché è molto delicato questo passaggio. Per questo abbiamo scelto di dar voce anche ai medici, che poi di conseguenza rifletteranno su di noi le loro scelte, ma anche i loro condizionamenti, le loro paure, il timore di vedersi lo stipendio tagliato e la denuncia dietro l'angolo. Ne abbiamo qualcuno ancora anche al telefono, perché ci ha raggiunto all'800 2400 24. Proviamo a sintetizzare le questioni così da illustrare diversi aspetti. Paolo, buongiorno da Ancona, lei è un dottore? Sì, sono un medico di medicina generale. Dica. Niente, no, per quanto concerne il discorso delle prescrizioni inappropriate, non viene tenuto conto di un fattore impressionante che incide in sanità come un macigno, che è la burocrazia. Noi medici purtroppo siamo sommersi di burocrazia. Lei calcoli che, e questo purtroppo coinvolge sia i medici territoriali che i medici ospedalieri. E posso dire una cosa, dottore? Sì. Che ormai voi medici, quando si entra o nel vostro ufficio o nell'ambulatorio o al pronto soccorso, non alzate più la testa verso il paziente, siete sempre lì a compilare carte, esatto, a scrivere, ancora esatto, prima che esatto, toccare, palpare, che sarebbe così presente, importante, il povero paziente che attende la esatto, visita. E questo è un cambiamento, sì. Lei tenga presente di una cosa, che noi medici territoriali abbiamo quasi il 70% del tempo clinico rubato dalla burocrazia. I medici ospedalieri sono messi un po' meglio, viaggiano intorno al 50%. Sono messi male anche loro comunque. Ma qual è la sua soluzione? Scusi. No, la cosa impressionante, grottesca ed agghiacciante è che le istituzioni che chiedono l'appropriatezza prescrittiva, giustamente, sono poi le stesse che, caricando di burocrazia i medici, di fatto impediscono la messa in atto dell'appropriatezza prescrittiva. In che modo? È come un cane che, se tu mi rubi il 70% del tempo per la burocrazia, io potrei fare, se mi venisse restituito quel tempo, potrei fare un esame obiettivo molto più accurato e potrei evitare di prescrivere esami inutili. Ma se tu me lo impedisci, come puoi pretenderlo? Punto interrogativo. E sono gli stessi che poi dicono che bisogna spendere di meno. La burocrazia in sanità ha un costo spaventoso, altro che 10 miliardi previsti, ma molto di più. Il problema. Qual è la sua ricetta, dottore? Deburocratizzare la professione medica è la madre di tutte le battaglie. Grazie. Se non si fa quello, grazie. Tutto è inutile. Grazie, questo è importantissimo quanto detto da questo nostro ascoltatore. E tra l'altro non avevo ancora sentito questa proposta e questa soluzione. Buongiorno, andiamo a Milano, ci aspetta Roberto. Pronto? Pronto? Buongiorno Roberto, dica. Sì, buongiorno, c'è un'ambulanza che sta passando, mi scusi. No, nulla, io sono un caso di quelli a cui inizialmente poteva sembrare essere stata prescritta una risonanza a caso, poi mi hanno diagnosticato una rara forma di leucemia. Innanzitutto in bocca al lupo per la sua terapia. Ma devo dire che nella sfortuna, la fortuna che la diagnosi parlasse di una leucemia rara, comunque acuta, quindi il fatto che mi sia stata fatta fare una risonanza è stato quanto mai provvidenziale, perché se non avessi avuto l'esame da lì a 15-20 giorni, un mese, no, sarebbe stata irrecuperabile la situazione, questa detta dei medici. E vabbè, però nella sfortuna, la fortuna che appunto su di questa malattia ne guarisce il 95% dei affetti, fortunatamente. Lo vuole dire, perché proprio ieri parlavamo nel corso di questa trasmissione di questo brutto vizio di parlare di male incurabile, e il tumore non è più, non sempre, chiaramente dipende da quando viene, come dire, catturato, diagnosticato, e non è un male incurabile, e di conseguenza è giusto che lo sappiano anche quelli che ci stanno ascoltando dall'ospedale, da istituti oncologici, è così, e lei è un esempio del fatto che bisogna avere speranza e continuare con le cure. Però a lei è stata diagnosticata questa leucemia, Roberto, per una risonanza che, cioè, lei c'era andato a cuor leggero quel giorno a farla. Purtroppo abbiamo perso la linea nel corso di questa testimonianza così importante, ma abbiamo colto il senso di questo ascoltatore. Voleva dirci: mi ha salvato la vita questa risonanza prescritta così, e quasi come, chissà, forse uno spreco, sarebbe stato additato da uno spreco da qualcuno che guardava fuori, perché sembrava una voce tra l'altro anche abbastanza giovanile, e che alla luce di quanto deciso ieri potrebbe sicuramente, il paziente giovane verrà penalizzato nel corso di questo screening che i medici dovranno fare così a spizzichi e bocconi, perché in genere si tende a pensare che le peggiori patologie vengano riscontrate in pazienti più anziani. Non è così, e lo dimostra anche l'affollamento, potete parlare con gli oncologi, e l'aumento di tumori, come abbiamo sentito anche nel nostro ascoltatore, in popolazioni sempre più giovani. 15 minuti dopo le 9 cerchiamo di concludere con voi, perché ci piacciono le vostre osservazioni, la vostra soluzione, siete sempre particolarmente attenti e lucidi riguardo a queste problematiche. Dottoressa Maddalena Schiano, lei è un medico, naturalmente ha sentito anche quest'ultimo racconto di quello che poteva essere anche un suo paziente con questa risonanza. Assolutamente sì, io vorrei dire che esistono delle condizioni per cui forse bisognerebbe mettersi un attimo a pensare che la sanità ha un profitto diverso. Il benessere di un individuo è un individuo che riesce a rientrare poi nella società dopo una malattia grave è un profitto, non esiste solo il profitto economico, e questo forse è quello che fa la differenza in sanità. Non la possiamo continuare, pronto? Siamo ascoltando, naturalmente. Non la possiamo continuare a considerare il profitto come se fosse un'acciaieria, è qualcosa che produce anche il benessere dell'individuo, e questo deve essere calcolato. Perché se non calcoliamo questo, finiamo veramente col non fare alcune cose, col non dare al cittadino le risposte che chiede. Una sanità giusta è, come forse ha detto Gino Strada, quella che offre a tutti la possibilità di guarire, o perlomeno di fare il tentativo di guarire. E questo tentativo forse si stanno impedendo di farlo, e da qualche anno. Dovremmo ragionare su questo. Cos'è il profitto in sanità? Perché il profitto, io credo appunto che sia il ragazzo che ha telefonato da Milano che ce l'ha fatta, quello è il mio profitto. Poi certo bisognerà razionalizzare le spese, ma in modo intelligente, non continuando a tagliare, non continuando a penalizzare l'operato dei medici, o facendo, mi scusi, ma queste continue così falsità, perché i pronti soccorsi non sono pieni per l'influenza, i pronti soccorsi e le spese sanitarie non aumentano perlomeno solo e soltanto per una serie di esami inutili. Quando io mi trovo a dover gestire in un posto dove dovrebbero stare 12 persone, 40 persone, non posso, come diceva il collega giustamente di medicina di base, mettermi a selezionare un esame più urgente di un altro. È fatale che farò anche un esame, per esempio ematochimico, in più. Ma mi ci avete messo voi in questa condizione. Delle due l'una. Non possiamo continuare a lavorare in queste condizioni. Rimanga con noi, perché ci sono anche persone critiche su ciò che fanno i medici e ci piacerebbe sentire la loro opinione e la sua risposta. Per esempio Laura, lei che chiama da Roma, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io mi occupo di organizzazione in sanità e mi sono occupata più volte di progetti di controllo di gestione. Volevo dire che purtroppo queste decisioni a livello centrale vengono sempre prese da persone che non hanno nessuna competenza reale. Scusi, quali decisioni a livello centrale? Sta parlando del decreto? Ovviamente, sì. Ovviamente. Allora, prima di tutto, gli esami di diagnostica, sempre di più i cittadini sono costretti a farli in privato. Sempre quindi di più. Costi, sempre di più. Sono e per i costi e per le attese. Esatto, brava, per le liste d'attesa. Stessa cosa i ricoveri inappropriati. Io non ci credo che ci sono molti ricoveri inappropriati, perché non ci sono i posti letto. Il medico, prima di ricoverare, ci pensa su, no uno, ma due, ma tre, ma quattro, ma cinque volte. Quindi queste qui sono tutte fandonie, secondo me. Cioè, poi, lei ci spieghi meglio cosa fa per capire anche cosa rappresenta. Io mi occupo di processi organizzativi. Io valuto, analizzo, studio i processi organizzativi per cercare di ottimizzarli. E molte volte mi sono occupata di progetti nel controllo di gestione. Quindi come controlliamo l'operatività? Qui viene controllata soltanto a numero di prestazioni. Ma non è così che si lavora. Le faccio altri due esempi velocemente. Uno, per me importantissimo, è quello degli errori che vengono fatti dai medici, che sono stanchi, sovraccarichi. Per esempio, non so, se uno, un medico, opera tre volte un ginocchio, lei dal controllo di gestione non lo vede, perché vede soltanto il numero delle prestazioni eseguite. Quindi a livello proprio qualitativo non si va a vedere per quale ragione il medico ricovera tre volte un ginocchio, perché ha sbagliato la prima volta, ha sbagliato la seconda. È molto chiaro quello che lei dice. Tra l'altro lei appunto non è un camice bianco, non è un dottore, quindi non è una difesa di parte. È interessante questa prospettiva. Ma allora la soluzione quale sarebbe? Come valutare, visto che la sanità è pubblica, ha dei costi e ci dicono a tanti sprechi, lei cosa suggerirebbe? Un'ultima cosa vorrei dire prima che poi... No, e non abbiamo tempo purtroppo, abbiamo tantissime persone. Volevo solo dire attenzione anche all'età dei medici, siamo tutti sopra i 55, fra un po' non ci saranno più medici, vada al pronto soccorso e veda quanti medici giovani ci sono, non ce ne sono. Pochissimi rispetto alla percentuale dei presenti. È grave problema, non c'è riciclo. Certo, poi c'è anche il blocco, figuriamoci delle assunzioni, ma qual è il suggerimento per una sanità più efficiente e razionale anche dal punto di vista dei costi? Uno, sono d'accordo col medico che ha parlato prima, bisogna tornare a far fare i medici, perché non è che possono meno fare burocrazia. I manager, meno non devono burocrazia. Fare i manager, devono fare i medici. Due, bisogna mettere alla testa di queste organizzazioni, non delle persone che sono state messe lì dalla politica, ma delle persone che sanno fare quel mestiere lì. Che è quello di gestire un'organizzazione. Certo, anche sanitaria. La nomina politica, non abbiamo ancora nominato questo grandissimo problema della nomina politica rispetto a primariate e quant'altro. Anche questo è un tema che abbiamo affrontato in puntate precedenti, ma che naturalmente contribuirebbe a efficientare, brutto termine, e quello che succede poi in corsia e a noi pazienti. Attenzione, dottoressa Maddalena Schiano, lei che dal San Camillo si trova al centro di un reparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza che è sempre nell'occhio del ciclone e che spesso viene ribaltato, diciamo così, sulle prime pagine dei giornali. Naturalmente sentite bene anche voi questo problema. Assolutamente sì. Per noi all'interno del pronto soccorso questo è un problema enorme, anche perché è vero, il ritardo della possibilità di accedere sia per interventi che per esami strumentali attraverso liste d'attesa che hanno tempi lunghissimi, sempre per i famosi tagli lineari ovviamente, e di personale, di posti letto e quant'altro, determina ovviamente una richiesta del cittadino che è l'anello debole di tutto ciò e che il malato e che si rivolge poi al pronto soccorso per avere una risposta. E noi che cosa facciamo? Stretti fra l'incudine e il martello? Tra i tanti medici che abbiamo consultato ieri, appunto per avere un'idea di quale fosse il tema più rilevante al di là dei costi, abbiamo sentito tante volte sottolineare il timore. Moltissimi poi hanno dei contratti a termine e di conseguenza sono ancora più condizionati, si sentono paralizzati. Come faremo a decidere se prescrivere o meno? Questo, ci hanno detto, non solo è umiliante, ma potrebbe avere conseguenze gravi sull'ultimo anello della catena, che poi è il più importante, quello per cui si pagano le tasse, per cui c'è il servizio, vale a dire il cittadino, utente, paziente. Facciamo ancora una volta gli auguri al nostro ascoltatore che ci ha chiamato facendo patrimonio comune della sua esperienza sulla leucemia. È stato un passaggio particolarmente importante di questa puntata, in cui abbiamo provato a sviscerare un aspetto di questo decreto sugli enti locali che contiene anche i tagli alla sanità. Io annuncio, tra quello che sarà il tema della seconda parte di Spunti di Vista, non prima però di segnalare alcuni degli ultimi sms. Ci sono arrivati al 349 238 6666, e c'è anche chi è critico. Vuol dire che dobbiamo prescrivere risonanze a tappeto a tutti? Ovviamente no, ma se un giorno si andasse in quella direzione probabilmente poi si finirebbe anche con il risparmiare sui costi terapeutici e della cura dopo. C'è chi segnala l'ingombrante presenza di centinaia di case di cure private. C'è chi ci dice di eliminare la burocrazia, perché perfino io, scrive, che faccio il camionista, per la burocrazia ho dovuto assumere un'impiegata ed è terribile che lo debbano fare i medici, che invece salvano vite e tanto il loro lavoro ha a che fare con il benessere collettivo. E insomma, grandissima solidarietà in questo caso ai medici. Probabilmente quello che si vuol fare, dice ancora un altro sms, è spingere verso la privatizzazione tout court della sanità, e questo è anche il tema che ci sottolineava il nostro economista Gilberto Turati, che ringraziamo, docente di scienze delle finanze all'Università di Torino, è stato uno degli ospiti, è un redattore della Voce. E quello è il grande tema: che sanità vogliamo? Vogliamo rimanere nel modello universale per tutti? Vogliamo una sanità che invece sia complementare? Questo sarà il tema di un'altra puntata, con delle assicurazioni private che vadano in qualche modo a completare i servizi offerti dal pubblico. Che sanità si delinea da qui a 10 anni? Ringraziamo anche la dottoressa Maddalena Schiano, medico ospedaliero del San Camillo Forlanini di Roma, del reparto pronto soccorso, abbiamo sentito. E ringraziamo il fondatore e presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che ha aperto la trasmissione con le sue osservazioni dalla parte dei cittadini. Cambiamo pagina ora completamente, perché ci spostiamo in Germania, proprio così. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Ironico, graffiante, bellissima. Forse avete riconosciuto la musica che chiude Brian di Nazareth, uno dei film dei Monty Python, uno dei film più geniali mai prodotti nella storia del cinema. E cosa succedeva in questo Brian di Nazareth? Un bambino nasceva contemporaneamente a Gesù, ma in una capanna, pensate l'ironia, accanto alla sua grotta, e veniva scambiato dai re magi per il bambino che cercavano. Dunque andavano a offrire il doni a questa madre del bimbo, che era molto petulante, e poi si accorgevano dell'errore ed era abbastanza esilarante tutto quello che succedeva. Era un film del 1979, Monty Python. E poi oggi ci è capitato di incontrare Proprio così? Qualcuno che pur invecchiando non andrebbe, non va per nulla rottamato, per quanto ci sia quella tendenza, perché un uomo di 75 anni che indaga, ha sempre indagato a fondo sulle cose, si è fatto molte domande, si chiama Terry Gilliam e sarà nostro ospite in questa seconda parte della trasmissione, in cui vi invitiamo a partecipare per quello che voi vorrete condividere con noi sulla vostra esperienza con lo smartphone acceso anche dopo l'orario di lavoro, con le email che vi inseguono dappertutto, col tempo che sembra non bastare mai. Eppure ci avevano detto che la tecnologia ci avrebbe liberato. Ebbene, Terry Gilliam, e ve lo proporremo tra poco, ha una sensazione completamente diversa su quanto accaduto negli ultimi anni in questo ambito. Lui è una persona di una modestia incredibile, non vuole insegnare né far lezioni a nessuno, però è molto importante capire perché parla di nuova schiavitù, tra l'altro di schiavitù che tutti accetteremmo di buon grado, perché è molto più subdola di quella schiavitù che una volta ci veniva imposta dall'alto, ci ha raccontato, e che ci rendeva molto possibile l'individuazione del nemico. Quindi torniamo tra poco dopo questo stacco pubblicitario proprio insieme a lui. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Ma è davvero il diavolo questa tecnologia, o forse c'è qualcosa che sottende all'utilizzo che se ne fa, e questa tecnologia diventa uno strumento forse per dar voce a perversioni o tendenze autoritarie che comunque si esplicherebbero diversamente. Chi lo sa, ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti. Intanto saluto Davide Bennato, professore, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei è docente di sociologia dei media digitali all'Università di Catania e tra l'altro è docente della Lipari School on Computational Social Science, vale a dire siete a Lipari, vi divertite un sacco e poi al mattino fate anche qualche corso, dica la verità. Diciamo che in questo momento è 50-50, cioè la mattina facciamo questi corsi su social science e algoritmi e poi pomeriggio ovviamente approfittiamo delle bellezze di questa isola. È chiaro, no, ma scherzi a parte, attirate, questa è un'altra delle eccellenze italiane, ne abbiamo approfittato per parlarne, attirate studenti da tutto il mondo e i vostri corsi sono seguitissimi, poi servono appunto a dare crediti e sono riconosciuti nelle università di tutto il mondo. Lei che si occupa proprio di media digitali ha una visione molto particolare di quelle che sono le colpe della tecnologia, ce la può sintetizzare? Poi diamo la parola a Terry Gilliam e torneremo a commentare questo intervento di Gilliam con lei. Sì, diciamo che la mia opinione, anche alla luce di tutte il gran numero di ricerche sociologiche sul tema dei social media, è che in realtà il vero problema è una questione di modelli culturali, cioè non è una questione spesso della tecnologia in sé che ci costringe ad alcuni comportamenti, ma spesso il nostro modo di, diciamo così, un po' miope dovuto ai nostri modelli culturali di sottoutilizzare le opportunità che la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi siamo noi il problema, non lo smartphone o il computer che ci insegue. Diciamo che fra un telefonino e una persona, di solito il problema è la persona, ma raramente il telefonino. Ci segnala il New York Times la problematica invece dei carichi di lavoro che aumentano notevolmente da quando la tecnologia rende più ampie anche le aspettative di coloro che le richieste, le direttive le fanno magari il venerdì sera alle 5 o aspettandosi che qualcuno continui a lavorare anche quando ha lasciato l'ufficio, anche quando si troverebbe nella cosiddetta zona di tempo libero. Sì, infatti questo è un problema in realtà di netiquette, cioè di buona educazione, di buona gestione dei rapporti interpersonali anche sul posto di lavoro, cioè il fatto che io sia raggiungibile 24 ore su 24 non vuol dire che io debba avere un modo per separare il tempo di lavoro dal tempo di svago, quindi questa qua in realtà è una questione dell'atteggiamento che hanno virgolette i capi nei confronti dei propri dipendenti, non è una questione della tecnologia, perché comunque la possibilità di essere raggiunti, di essere always on, sempre connessi, comunque è una buonissima opportunità. soprattutto per i freelance. E sono sempre più gli articoli, soprattutto nella stampa internazionale, che si occupano di questo. Quello firmato da Tony Schwartz il 5 giugno, pensate che dice di essere stato convocato in Europa, in una multinazionale, perché avrebbe dovuto fare una specie, una sorta di convention, una sorta di meeting con gli impiegati di questa azienda. Ebbene, lo convocano per l'apertura della sessione, che inizia alle 7:30 del mattino. Cioè, già questo la dice lunga sulle aspettative rispetto ai lavoratori di questa multinazionale. Probabilmente si sarebbero esternate diversamente anche senza uno smartphone, dalle 7:30 del mattino. E lui giustamente lo segnala sul New York Times, perché è una cultura che sottende a questo tipo di imposizioni, che va ben al di là dello strumento tecnologico. Attenzione però, perché lo strumento tecnologico in qualche modo aiuta a rendere reali queste paure. L'ultimo film di Terry Gilliam si chiama Zero Theorem, non l'abbiamo ancora visto, è uscito nel 2013 nelle sale italiane, però arriva quest'anno. Narra di una hacker e al servizio di una corporazione misteriosa che spia tutti e che spia tutto, e c'è questa vita del protagonista, che è Christoph Waltz, che è sempre connesso, è una sorta di alienato, ma lui aspetta, ha una speranza, lui aspetta di ricevere una telefonata che gli restituirà la felicità. Comunque è piuttosto l'opposto di un'utopia questo film, e quando per questo film Terry Gilliam ha ricevuto anche per questo film il premio Flaiano, è venuto in Italia, perché Terry Gilliam in Italia ha una casa. Pensate un po' in quale regione ce l'ha, lo svelerà poi nell'ultima parte di questa intervista, abbiamo chiacchierato proprio ieri. Ma sentiamo cosa dice di questa paura, di questo problema grosso, secondo lui, della tecnologia. No, the problem is the opportunity is always there and it's always seductive and it's... Il problema è che l'opportunità è sempre lì. È sempre molto allettante e facilita molte cose. Ma poi ti rendi conto che un sacco di nostre abilità sono andate perse col passare del tempo. La tua memoria è stata sottratta dal tuo computer, dal tuo iPhone. Io una volta ricordavo tutti i numeri di telefono delle persone che conoscevo. E ora riesco solamente a ricordarmene alcuni. E questo accade non solamente perché sto diventando vecchio, ma perché non sto più esercitando la mia memoria. 6 mesi fa il mio iPhone si è guastato. Ho perso tutto quello che c'era dentro e mi sono trovato in un vicolo cieco. Questo mi ha sorpreso molto, perché mi sono reso conto di quanto io sia diventato dipendente dal mio iPhone, di come non abbia memorizzato nessuna informazione nella mia testa o in un libro o da nessun'altra parte. Il telefono conteneva tutta la mia vita e mi sono trovato in uno stato terribile. E questo è il problema. È stato allora che ho iniziato a pensare che la mia generazione potrebbe essere l'ultima ad utilizzare tutte le capacità della nostra memoria. E se non rispondi a una mail o a un tweet, le persone si offendono e tu ti devi sentire obbligato a rispondergli velocemente, così non si offendono. E dato che tu non vuoi offendere nessuno, alla fine diventa un circolo vizioso, sempre più veloce. E la cosa strana è che è sempre colpa tua, ma nessuno è responsabile di niente. È così complicato quello che sta succedendo e sta accadendo così in fretta che le persone non se ne rendono neanche conto di come le loro vite si stiano completamente trasformando. Parlo di mancanza di responsabilità, perché ora negli uffici, nelle multinazionali, nel business, quando una persona fa un lavoro, altre 3 persone sono coinvolte nello stesso lavoro e quindi di nuovo nessuno è responsabile e tutti incolpano gli altri. E lo stress aumenta sempre di più. L'unica cosa positiva che può venire fuori da questa situazione è che le persone diventeranno così stressate da morire prima e di conseguenza la popolazione crescerà di meno. Limit the population growth. È ritornata alla sua ironia graffiante. E continua Terry Gilliam: da questo passaggio, da questa analisi, vi siete riconosciuti? Lavorate in un team di questo genere, in cui non è mai colpa di nessuno e tutti puntano il dito, si vive molto stressati. Però continua da questo passaggio, se vogliamo, della sfera individuale. Arriva a parlare di un elemento che caratterizza, secondo lui, questa epoca e costituisce la differenza principale rispetto a quella in cui è nato lui, cioè la scarsità di consapevolezza politica, ed è legata a questo primo aspetto che lui ha affrontato. Sentiamolo. Well, that's my fear, is that Questa è la mia paura, che ci siano talmente tante informazioni provenienti dall'esterno che non abbiamo più la possibilità di tenerci aggiornati su tutto. E alla fine le persone diventano meno politiche, diventano apolitiche. Soprattutto quando lavorano così tanto solamente per tirare avanti e per ottenere tutte le cose che la madre società gli fornisce. Tutte quelle tecnologie ridicole di cui le persone pensano di aver bisogno per poter vivere nel mondo moderno. Questo è il motivo per cui vado in Italia. Perché nella mia casa in Italia non c'è televisione né internet, niente, e scappo da tutto ciò. È l'unico modo, perché se non faccio questo sforzo fisico di scappare da tutto ciò, mi rendo conto che mi ritrovo davanti al mio computer tutto il giorno. I find I'm sitting in front of my computer screen all day long. I do think philosophically all the time. I always think about things. I worry about things. Penso filosoficamente tutto il tempo. Penso alle cose. Mi preoccupo delle cose. Tento di spiegare le cose perché ogni volta che penso di capire il mondo, mi rendo conto di non capire e ricomincio da capo. Quando ero giovane avevo le idee molto più chiare e pensavo che il mondo fosse semplice da comprendere. Ora è tutto molto più complicato. È difficile capire cosa fare per migliorarlo. Qual è il tuo ruolo nel tentativo di renderlo migliore? Il mio problema è che, essendo laureato in scienze politiche ed essendo americano, sentivo di avere delle responsabilità. Perché ero fortunato ad essere un americano istruito e il mio dovere doveva essere quello di rendere il mondo un posto migliore. I politici non hanno più potere ormai, il vero potere nelle mani delle multinazionali che vanno oltre le nazioni e sono più grandi delle nazioni, degli stati. Non hanno nessun attaccamento a un gruppo limitato di persone che vivono in un'area specifica e che hanno una particolare cultura. Non so come si possano controllare le multinazionali e anche le banche mi sembrano più grandi delle nazioni. E poi questa riflessione su ciò che controlla le nazioni, ben più della classe politica, lo porta a parlare anche della Grecia. Speravo che i greci abbandonassero l'euro, solamente per poter rompere il sistema per un momento, per poter scuotere il sistema, magari cambiandolo e rendendolo migliore. Non so come i greci potranno mai ripagare il debito. Perlomeno se avessero abbandonato l'euro, avrebbero potuto riavere la loro valuta e mettersi a posto da loro in qualche modo. Ma il nostro sistema è diventato sempre più complicato e non sta più funzionando. L'unica cosa che spero è che tutto vada a rotoli e si ricominci da capo. Professor Davide Bennato, ha sentito dunque Terry Gilliam, lei seguiva Monty Python? Assolutamente sì, anzi il mio film preferito è Il senso della vita, perché è assolutamente surreale come a me piace l'umorismo. E ha sentito anche, abbiamo iniziato con Brian Di Nazareth, Il senso della vita, stiamo andando in epoche lontane, ma se vogliamo c'è un filo conduttore, perché anche queste ultime riflessioni di Terry Gilliam sono sul senso della vita, troppo apocalittiche per uno che insegna media digitali? Beh, diciamo che io, se dovessi essere uno scrittore di romanzi, sicuramente preferirei la narrativa distopica rispetto per raccontare la contemporaneità, ma essendo uno studioso di scienze sociali, quindi che si deve basare sui fatti e sulle teorie, in realtà posso dire che le argomentazioni di Terry Gilliam vengono da lontano, nel senso, ma molto lontano, nel senso che la prima critica che è stata fatta alla tecnologia risale niente di meno che a Platone. Platone è il primo che diceva che la scrittura sarebbe stato un problema perché le persone invece di ricordare le cose le avrebbero dimenticate una volta scritte su qualche supporto. Quindi in realtà è una vexata questione, ormai è una storia piuttosto tradizionale. Secondo me è un pochettino troppo, diciamo così, negativa come prospettiva. Sicuramente ci sono degli aspetti su cui bisognerebbe educare le persone, ma è una questione di cultura, di educazione, di relazioni rispetto agli altri, non è una questione della tecnologia in sé, anche se bisogna ricordare che la tecnologia in realtà non è mai neutrale, ti porta appresso una serie di valori, di ideologie, di modi, di modo di guardare al mondo e bisogna avere la consapevolezza di queste ideologie. Ma come si insegna questa consapevolezza, lei che è docente e ha a che fare sempre con giovani che sono nativi digitali? Io di solito mi rifaccio sempre alla famoso talk che fece all'università di Stanford David Foster Wallace, dove racconta la famosa storia dei due pesci giovani che incontrano un pesce anziano, e quando il pesce anziano gli chiede: salve ragazzi, com'è l'acqua oggi? I due pesci si chiedono: ma che cos'è quest'acqua? Cioè, nel senso, non avevano la consapevolezza di essere calati nell'acqua. Io di solito, quando ragiono con i miei studenti, cerco proprio di dargli gli strumenti per fargli capire in che acqua sono immersi, quindi una dimensione, diciamo così, ecologica, in cui loro ovviamente possono concentrare, rispetto alle proprie sensibilità, rispetto ai propri valori, se sugli aspetti negativi o sulle opportunità. Io personalmente, da studioso e da persona che vive pienamente i social media, preferisco concentrarmi sulle opportunità, cioè preferisco lavorare su ciò che mi permettono di fare le tecnologie piuttosto quello che mi sottraggono. Poi ovviamente nell'utilizzo di tecnologie c'è sempre un trade-off, per esempio il telefonino ci ha abituato fondamentalmente a vedere sempre meno alcune persone, ma se le vediamo sempre meno, qualche motivo comunque ci sarà, che è ben più profondo. Lei dice è un alibi? Ma sì, sì, in alcuni casi sì. Diciamo che io, parlando proprio del mio caso personale, quando io social media li utilizzo per entrare in contatto con quelle persone con cui mi fa piacere stare in contatto, ma non vorrei, diciamo così, perché non abbiamo molto in comune, frequentarli tutti i giorni. Quindi è uno strato intermedio tra le persone che voglio vedere sempre e le persone che non voglio vedere mai. Ah, questo è interessante. Quindi in realtà ci fornirebbe una specie di schermo che ci permette di mantenerci sulla soglia della civiltà e della buona educazione senza dover approfondire o dedicare un tempo più impegnativo per quel che ci riguarda. Esatto. Infatti quando Gillian parlava del fatto che le persone si possono offendere se tu non rispondi subito all'email o se tu non rispondi subito al tweet, in realtà questo qua non è un problema delle tecnologie in sé, ma un problema delle aspettative. Cioè, proprio cambiando, diciamo così, situazione, se io dico ad un amico: allora ci vediamo in quel posto lì, e quello mi dice: guarda, però passami a prendere che non c'ho la macchina, io, per me suona strano, perché io dopo è scontato nelle mie aspettative che le persone nel XXI secolo abbiano tutti l'automobile. Quindi questo qua è una questione di aspettative, non è una questione di tecnologia in sé. Per questo adesso noi ci chiediamo come sarebbe stata la nostra vita se non ci fossero i telefonini, perché in realtà i telefonini, e con i telefonini intendo le tecnologie di relazione sociale, si sono talmente embedded, incorporati nella nostra vita quotidiana, che hanno creato un meccanismo di aspettative. Quindi non puoi. Quindi la colpa non è del telefonino, ma dell'aspettativa che comunque ci sarebbe stata in qualche modo. Esatto. Grazie, rimanga con noi Davide Bennato, perché dobbiamo concludere. Chiudere questa chiacchierata, visto che lei ci continua a dire cose piuttosto non sfruttate, chiamiamole così, definiamole così, parla decisamente fuori dai cliché. Se ne scrivono tante di cose sulla tecnologia, ma lei va a fondo senza ripetere ciò che abbiamo già letto. E prima però dobbiamo controllare come sta andando la viabilità sulle strade italiane, perché siamo a fine luglio, giornate da bollino rosso. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Terry Gilliam, come avete sentito nella prima parte, ha una visione piuttosto nera di quella che è non solo la possibilità di essere raggiunti via email o di twittare, ma di quella che è la relazione tra persone generata da questa tecnologia, perché con queste tecnologie, ci ha raccontato, le persone pensano di aver bisogno sempre di più di aggeggi e accessori per poter vivere nel mondo moderno. Io me ne vado in Italia, dice lui, nella mia casa. E ci ha spiegato anche come la raggiunge ieri, perché la sua casa si trova in Umbria, non c'è né televisione né internet, e ci vado lì proprio perché voglio scappare da tutto questo. Quando ero giovane pensavo di poter cambiare il mondo, sentivo questa responsabilità di dover cambiare il mondo, perché ero un americano istruito, dunque insomma appartenevo a una classe privilegiata, ne sentivo il peso, e con Monty Python infatti qualche riflessione l'ha suscitata. volta e ha tenuto fede a quelle che erano le sue premesse, diciamo così. Ora invece si sente confuso perché non capisce bene da che parte sta il nemico. Il mondo non è più bianco e nero come era prima della caduta del muro, prima dell'89. Oggi la politica, secondo lui, conta poco o nulla, perché tutti i cordoni della borsa, letteralmente, e di ciò che muove gli uomini e gli interessi hanno in realtà una dislocazione transnazionale. Lui ha parlato delle multinazionali. Sentiamo come abbiamo proseguito la conversazione. A un certo punto ha dato anche dei suggerimenti. Se fossi un terrorista, probabilmente farei saltare in aria tutte le fabbriche che producono microchip. Così tutto il sistema crollerebbe. Sto diventando sempre più simile al Candido di Voltaire. Passo molto più tempo a curare il mio giardino. Non saprei che altro fare. Lui passa molto tempo a curare il proprio giardino, però di cose nella vita ne ha fatte e tante. Quando era molto più giovane continua a farle oggi da regista, anche se in realtà di speranza, dice, di cambiamento ne ha davvero poca. Ho perso la speranza e non so se mi ritornerà. Tutto ciò che so è che quando guardo il mio giardino e vedo gli alberi che crescono, penso che stiano crescendo bene. Ma non posso dire lo stesso dell'umanità, davvero, non ne ho idea. Ora viviamo in un tempo in cui abbiamo un sacco di cose a disposizione. Abbiamo molti più comfort rispetto a una volta, ma le persone sono molto più stressate di prima. Tutto ciò è completamente assurdo. So this is crazy. Di speranza ne ha poca. Ha sentito il professor Davide Bennato, uno dei suoi idoli, Terry Gilliam, e però così ha uno sguardo molto amaro, se vogliamo, anche se c'è molta provocazione in questa amarezza sul mondo, sull'umanità e sulla tecnologia. Invece a noi interessa sapere e cogliere questo aspetto dell'opportunità che lei trasmette anche ai suoi allievi, perché grazie anche alla tecnologia si possono fare a volte delle cose che sarebbero state impensabili anni fa, e tra poco ve ne proporremo una. Bennato è ancora con noi? Assolutamente sì. E cosa come commenta questa mancanza di speranza di Terry Gilliam? Se l'aspettava, diciamo, la sorpresa? Ma diciamo in realtà no, me l'aspettavo una tale, diciamo così, sintesi del suo ragionamento. Però mantenendo il, diciamo, il riferimento al Candido, vorrei dire che comunque io non ho un atteggiamento di tipo panglossiano, cioè io non credo che il mondo descritto nei social media sia il migliore dei mondi possibili, però credo sicuramente che ci sono un sacco di opportunità che queste tecnologie mettono nelle mani delle persone. E poi tocca alle persone. Adesso la dobbiamo salutare, professore, grazie per questo suo messaggio. Le proponiamo in chiusura l'abbiamo tratto da TED ed è un'esperienza, è un aggettivo superlativo che stiamo per usare, però come definirla diversamente? Straordinaria. Attenzione, questo che sentirete parlare è un ragazzo palestinese e racconta la sua trasformazione, la sua genesi di pensiero, poi trasformata in azione. Lui organizza infatti viaggi proprio così, pensa che il turismo possa cambiare il mondo, ma sono viaggi particolari perché lui porta le persone nelle case delle persone o di quel segmento di popolazione che ritengono di odiare, e così cambia mentalità, ambiente e mondo. Sentiamo come fa Aziz Abu Sara, che vi proponiamo in questo momento. Io, prima di proporvi la sua voce, ringrazio Sylvie Boccaletti, tutta la redazione, Luca Cremonese, Laura Faggin, Massimiliano Lollis e Alessandro Longoni, in regia Peter Bescapè. Sono Irene Zerbini, vi auguro una giornata radiosa, vi do appuntamento a domani. Ascoltate attentamente cosa è stato in grado di fare, anche grazie alla tecnologia, questo ragazzo che vi proponiamo. I'm a tourism entrepreneur and a peace builder. But this is not how I started. Sono un imprenditore turistico e un promotore di pace, ma non è così che ho iniziato. Quando avevo 7 anni, mi ricordo che guardavo la TV, vedevo gente che tirava i sassi e mi sembrava una cosa divertente da fare. Perciò sono uscito e mi sono messo a tirare sassi. Mio fratello era più grande di me, venne arrestato a 18 anni. Quando rifiutò di confessare, venne picchiato duramente. Le lesioni interne riportate provocarono la sua morte. I was angry. I was bitter, and all I wanted was revenge. Ero arrabbiato, furioso, e tutto ciò che volevo era vendicarmi. A 18 anni ho deciso che dovevo imparare l'ebraico per trovare un lavoro. In classe ho incontrato per la prima volta ebrei che non fossero soldati, e ci siamo trovati in sintonia sulle piccole cose, per esempio il mio amore per la musica country, una cosa molto strana per un palestinese. Which is really strange for Palestinians. Then that I realized also that we have a wall of anger, of hatred, and of ignorance that separate us. È stato allora che ho capito che c'è un muro di rabbia, di odio e di ignoranza che ci separa. Quindi ho deciso di dedicare la mia vita ad abbattere i muri che separano le persone. Lo faccio in vari modi. Il turismo è uno di questi. Potreste chiedervi, ma davvero il turismo può cambiare le cose, abbattere i muri? Sì, il turismo è il miglior modo sostenibile per distruggere questi muri, per creare uno strumento sostenibile di connessione reciproca e per stabilire delle amicizie. In 2009, I co-founded Mejdi Tours. A social enterprise that aims to connect people. Nel 2009 ho cofondato la Mejdi Tour, un'impresa turistica sociale con lo scopo di connettere le persone con due amici ebrei. A Gerusalemme, per esempio, abbiamo due guide turistiche, una israeliana e l'altra palestinese. Lavorano insieme e raccontano la storia, l'archeologia e i conflitti dai due punti di vista. Ricordo di aver fatto da guida con un'amica a una congregazione ebrea di Chicago. La gita era a Gerusalemme. Li abbiamo portati in un campo di rifugiati palestinesi, dove ci hanno servito del cibo buonissimo. Un piatto palestinese che si chiama makluba, cioè sottosopra. Si cucina con riso e pollo e poi si capovolge sottosopra. È il miglior cibo del mondo. Abbiamo mangiato insieme e poi c'era un gruppo di musicisti israeliani e palestinesi e abbiamo ballato la danza del ventre. When we left both sides, they were crying because they did not want to leave. 3 years later, those relationships still exist. Tutti volevano rimanere e piangevano. 3 anni dopo, quelle amicizie esistono ancora. Immaginate se quel miliardo di persone che viaggia all'estero ogni anno viaggiasse in questo modo, senza andare in autobus da un posto all'altro, da un albergo all'altro, senza scattare foto alle persone dal finestrino, ma entrando davvero in contatto con le persone. Ad esempio, mi ricordo di un gruppo musulmano proveniente dall'Inghilterra che è andato a casa di una famiglia ebrea ortodossa e ha mangiato la sua prima cena del venerdì, la cena del sabbat. Hanno mangiato lo amin, uno stufato ebreo, e dopo un po' hanno realizzato che 100 anni fa le loro famiglie erano venute dallo stesso luogo dell'Africa del Nord. Non si tratta di una foto per il profilo di Facebook, non è turismo del disastro. Questo è il futuro del viaggiare e vi invito ad unirvi a me, a cambiare il nostro modo di viaggiare. Lo facciamo ovunque e andremo ovunque per cambiare il mondo. And I invite you to join me to do that, to change your travel. We're doing it all over the world now and we see ourselves going everywhere to change the world.